24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Il titolo di una canzone che è Un'ora sola ti vorrei, e poi noto che c'è coscienza nel governo, che i lavoratori si alzano presto e vanno a lavorare presto e le direzioni si sono più tardi. Un'ora sola ti vorrei, io che non so scordarti mai. Alle 8 alle 9. Che non sa. Dalle 8 alle 9, un'ora, un'ora. Ed in quest'ora non è re. La vita mia per te. Un'ora. Dalle 8 alle 9. Renzi ha convocato i sindacati. Ditemi tutto in un'ora. Che poi alle 9 c'ho da fare. È tornato Turbo Renzi. La Camusso dice: mi viene in mente la vecchia canzone Un'ora sola ti vorrei. Ma siamo ai tempi di Vincino, siamo ai tempi di Vincino, Vincino, buongiorno, te la ricordi, eh? Assolutamente sì, è una ragazziera giovane ai tempi. Questa è una versione un po' più moderna, ma un'ora sola, un'ora, più di un'ora poi, ragazzi, cioè. E poi gli dice: amore, non lasciarmi mai. Alla Camusso. Pure lei è innamorata di Renzi passamente. Sì. Ma come fare? Ma un giorno l'ha pure detto, dice: ma non è che dobbiamo fidanzarci, non è che... disse questa frase la Camusso. Non aveva speranze, non lo so qua, non lo so, dopo che la pezzo pane si mette con uno spogliarellista può succedere di tutto, magari vedremo la Renzi con la Camusso, Renzi con la Camusso, chi lo sa. Vabbè, allora sono le 6:31 minuti. Sentite questo finale, un'ora sola ti vorrei. Questo è 24 mattino, c'è Lorenzo Nespoli in redazione e c'è Peter Bescapè in regia, c'è Vincino, l'avete capito, e dopo l'apertura del Parlamento introdurremo anche... Vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, grazie. Lei, la direttorissima, la nostra Aurora Lussana, direttorissima della Padania. Buongiorno Milan, un caro saluto a te, come sempre un caro saluto ai tantissimi amici di Radio 24. Scusa. Cos'è che stai ascoltando? No, vabbè, è l'inno di San Marco, Milan. L'inno di San Marco. È il 7 ottobre oggi, ragazzi. Oh, porca. Vincino. Abbiamo una data da celebrare, il 7 ottobre oggi, però, su. Vincino, dai, il 7 ragazzi, ottobre. Vincino è il 7 ottobre. Ecco, te lo mettiamo. Vincino è svenuto. Vincino è il 7 ottobre. Senti qui. Ma è questo, Lussana? È l'inno a San Marco. Viva il Doge, viva il Mar. Su. Perché viva il Doge mi ha un po'. Ecco, all'inizio temevo vabbè, tantissimo, però, scusate, Vivaldoge. Vabbè, ma solo io celebro il 7 ottobre, dovrebbe essere la festa dell'Europa. La festa dell'Europa, mamma mia, mi cogli in un'ignoranza clamorosa. Ma non è, ma Milan, scusa, 7 ottobre 1571. Oh mamma mia, professoressa, mi dici. Sì. Abbiamo fermato i turchi, abbiamo a Lepanto. La battaglia di Lepanto. Questa la so, la battaglia di Lepanto. Abbiamo l'ISIS alle porte, al confine con la Turchia. Lo Stato Islamico che avanza e oggi non vogliamo celebrare il 7 ottobre. Vincino. Speriamo che i turchi fermino la... Ci ha colto un po' impreparati, effettivamente. Io non ho studiato, devo dire. Male, ecco perché arriverà il califfato, per gente così. Perché non per certo, guarda, perché io... tutti... Cosa dovremmo fare adesso? Mi metto una lavarda? Allora c'era Pio Quinto, ovviamente, al Foglio Pontificio. È chiaro. C'era questa flotta, c'era la Santa Lega che ha fermato l'avanzata dei turchi. Aspetta, però, perché adesso nell'era della modernità, qua google.it, certo, professoressa Lussana, mi scusi, ma poi per forza arriverà lì Pascià, non so. 7 ottobre so tutto, ho studiato, no, 7 ottobre, so. Dai, la battaglia di Lepanto, detta anche delle Echinadi, dai, su, è uno storico scontro navale, il 7 ottobre. E poi anche Poitiers, comunque, parliamo di Carlo Martello che fermò Poitiers e Lepanto, che sono insomma la frontiera d'Europa, allora l'abbiamo fermato. Vincino, tu ti sei svegliato oggi come se fosse un giorno qualunque. Oggi è un giorno, io sono al buio qua praticamente, sono a Mondello e al buio da due giorni. Non so, perché quel temporale è arrivato, un temporale pazzesco e iniziano così ad arrivare. Stai attento, ti iniziano a togliere la luce. Non hanno tolto la luce, è il temporale che ammazza. È il temporale, tu pensi che sia il temporale. Con sette candele proprio, dei ceri, grossi, che poi non vendono più candele, sono solo i ceri quelli là di Padre Pio praticamente. C'ho tre ceri. Levando la cosa di plastica addosso. Vabbè, ma cosa, scusate adesso, oggi è la battaglia di Lepanto. Sì, è la ricorrenza della battaglia di Lepanto. Andando a Lepanto si ripresero quattro città della Dalmazia che avevo perso. Ma che poi, scusa, di la verità, Vincino, voi che in Sicilia avete esperienza di arrivi di turchi, due secoli ce li siamo tenuti e si stava alla grande. Esatto, secondo me si stava benissimo. La città delle mille moschee, il dolce profumo della canapa indiana nell'aria, così era, ti assicuro, c'era un poeta arabo che Ibn non so chi che raccontò questa cosa. Ibn Battuta, no? Forse. Era suo cugino. E si stava benissimo, cugino. Cioè ci confermi che si stava benissimo. Ma ti penso una cosa, ci sono i bagni di Cefalodiana dove ancora oggi si va, ci sono delle rude e c'è l'acqua calda che ancora scende, costruita dagli arabi. Dagli arabi. E vedi, Aurora si sta benissimo con gli arabi, non è che... Cioè. A quell'epoca sì, guarda, noi cristiani, ebrei, tutti facciamo i nostri traffici, le nostre cose senza problemi. Vabbè, ma io scusa, no, vorrei capire, Aurora, tu cosa fai oggi, 7 ottobre? No, vabbè, a parte sentire l'inno di San Marco, che fa sempre bene, perché ci dà grandi motivazioni. No, ricordiamo ovviamente anche col quotidiano La Padania, sul nostro sito abbiamo fatto... una monografia su questa data, le acque di Lepanto che sono state. E vabbè, c'è chi vuole issare il vessillo dell'ISIS e chi... Ma chi è che vuole issare il vessillo dell'ISIS? L'ISIS forse vuole issare l'ISIS. Che vicino, scusa. No. Il vessillo dell'ISIS assolutamente, anzi io sono là a combattere, ho fatto Racca News per fare un quotidiano là per loro. E lui ha fatto, vero, Racca News, fa le vignette. Le vignette per Racca News, a gran satira fanno lì. Sì. La prima vignetta. Noi speriamo il gonfalone di vabbè. Gran battaglia. Com'è che è? La gran battaglia. Lingua veneta. Oh, si parlava nelle cancellerie, la lingua della diplomazia nel Mediterraneo. Infatti. Vabbè, vogliamo occuparci anche di quello che sta succedendo nel 2014. Cosa? Joran Gutmann, no. No, guarda, no. Il giornale di Sicilia di oggi, dove dice che praticamente ieri si è votato di nuovo per l'Assemblea regionale per un deputato, e un deputato eletto con Forza Italia, ma poi passato con Crocetta, è stato sbattuto fuori ed è stato eletto uno che era il PD, ora è diventato con Forza Italia. Cioè, questo è successo ieri in Sicilia, la notizia del giorno in Sicilia. A Ragusa, sì. La notizia del giorno. Vabbè, intanto io prima di andare alle cose invece più renziane, diciamo così. Non lo so, è il Presidente del Consiglio. Scusami, non parlare della manifestazione del 18 ottobre a Milano in Piazza Duomo contro Mare Nostrum, parli anche di Yoram Gusev. Va bene, dopo parliamo anche del 18 ottobre, la Lega in piazza contro Mare Nostrum. Prima però devo fare questo, sai che noi stiamo facendo questo appello, Free Rossella Brescia, gli amici di RDS dobbiamo farli, Free Rossella Brescia, io vorrei una volta cosa invitare... Cosa è successo? No, niente, non è successo niente, so, guarda che ti ascolta sempre, e ti vuole molto bene, poi vi pizzicate su Twitter. Rossella Brescia, un giorno vorrei portarla qui, un giorno al Parlamento, sì, magari dai. Con Aurora Lussana, dai, fai onore, dai, Aurora, fai anche tu un appello, di. Ma accidenti, no, è che poi sfiguro perché lei no, vabbè, no, come faccio? No, troppo affascinante. Poi, ma no. smettila. Sei sempre così piccata nei confronti di Rossella Brescia. Non so perché tu, Vincino, vorresti una volta Rossella Brescia qui ai nostri microfoni. RDS sì, non ce la lascia. Non ve la lascia? No. Assolutamente perché... sì, guarda, io sono per Rossella Brescia e poi per Vincino dalle 8 in poi. Anche Vincino. È un appello che alcuni miei follower hanno fatto. È vero, Vincino, prima o poi ti invito anche alle 8, tranquillo. Ma vabbè, insomma, il nostro appello poco... Ma Rossella Brescia perché non la vogliono? Sai com'è, esiste questa concorrenza, no? Cioè, lavora per un'altra radio, capisci? Ah, ci sono anche altre radio, Radicale, lavora per Radio Radicale. No, non è Radio Radicale, RDS. Vabbè, comunque, avendo già nominato, e sono ormai in tre giorni citato RDS 15 volte, credo che al 20° scatterà il bonus e ce la fanno venire una volta. Vabbè, comunque, Renzi, allora, sentiamo qua, ieri è ma basta sbuffare, è il tuo Presidente del Consiglio. Sì, no, infatti ma io grande. Guarda, ho fatto oggi ho fatto una vignetta che è quella là che lui dice che a febbraio stecca doppio per tutti. Doppio per lo stipendio, stecca doppio per tutti, lui sta sul tavolo abbigliato tranquillo col TFR, col freddo e sono felice. Vabbè. Sentitelo qui, ieri è comparso. A febbraio la gente è felice. È comparso a Quinta Colonna. Oh, avevamo giovedì scorso del Debbio, ha detto lunedì prossimo c'ho Rosy Bindi, e poi mi è comparso Renzi. Appena Renzi ha sentito che doveva venire Rosy Bindi da Del Debbio, è comparso lui. Renzi, ci si fa a fare le riforme in Italia, Presidente? Certo che ci si fa, ce la mettiamo tutta, ma non si molla di un centimetro. È chiaro che quando si fa le riforme qualcuno si accontenta e qualcun altro si scontenta. Vabbè, un po', insomma, ce la facciamo. E finire. Poi eccolo qua, sul TFR, sempre Renzi sul TFR. Sono soldi tuoi che prenderesti alla fine. Qui gli italiani sono divisi, lo dico per primo io, perché una parte dice meglio metterli da parte perché se ce li ho li spendo. Ho capito, però questo è un tema che c'è soltanto in Italia. Il TFR da quelle altre parti non c'è. C'è solo da noi perché abbiamo sempre pensato che lo Stato mamma ti deve controllare. Capito? Vuoi lo Stato mamma tu, Aurora? Lui ha girato con l'Erasmus, sa tutto lui. Ma gli insegnanti di diritto del lavoro ti raccontano che il TFR nasce proprio da una visione paternalistica, per cui l'imprenditore provvede a quello sciagurato del suo dipendente che non sarebbe in grado in maniera autonoma senza... Lo Stato mamma. L'ho visto qui. Ho capito, ma io non ho capito. Tu, Vincino, lo vorresti un bel TFR? Assolutamente, io voglio io già ne ho preso, devo dire, il 40% l'ho già preso per i fatti miei, perché noi abbiamo più potere. Noi articolo 2 possiamo fare quello che vogliamo, praticamente. Ci licenziano senza di nulla, tanto non siamo mai stati assunti, però abbiamo preso. Però avete il TFR, avete il TFR. Assolutamente sì. No. Io non ce l'ho. Vedi, Aurora Lussano, lo vorresti? No, io ho un piccolo problema, ragazzi. No, aspetta, Vincino, che piccolo problema c'hai? Allora, c'era su Prodi, governo Prodi, e ci dicono, allora dovete cominciare a pensare al secondo pilastro previdenziale. Quindi? quindi fondi pensionistici sì. integrativi. Allora abbiamo fatto una scelta che è irreversibile di destinare il nostro TFR ai fondi pensionistici. E beh, magari ti okay. dà la possibilità di riscattarlo, riprenderlo. No, perché quella scelta è irreversibile quando tu l'hai destinata ai fondi pensionistici. Ho capito, ma il secondo pilastro, perché ci hanno detto che saltava la previdenza, no? Sì. Fatevi il secondo pilastro, abbiamo buttato lì il nostro TFR, la scelta sì. è irreversibile. Ma quindi... tu ti sei fatta fregare così, quindi? A me sono fatta, vedi? Sono proprio una classica padana, no, vedi? Noi no. padani che ci dicono che dobbiamo pagare, perché... Tac, subito! Comunque, ho visto Renzi a Quinta Colonna. Sì. Sai cos'era l'essenza reificata di 20 anni di televisione berlusconiana? Ah, Renzi come Berlusconi, ah! Ma no, l'essenza della sua TV, perché lui proprio soffriva al pubblico, no? Sì. C'era tutto in lui, dal Maurizio Costanzo Show, Forum, la corrida, Sarabanda, che è il prezzo è giusto, la sei l'ultima, c'è cioè, posta per... hai visto un mix di tutto questo? È lui. È la straordinaria capacità di sedurre il pubblico senza però nessuna visione. Hai capito, pubblico, caro Vincino, chi è Renzi? Sì. È tutto questo messo insieme, la sai l'ultima... poi le altre fantastico, meraviglioso. Guarda, poi ora ci offrirà pure il quinto dello stipendio, lui ci darà come possibilità il quinto, sì, il quinto dello stipendio, sì. ma tu hai scritto la cavalcata di Renzi, sì. Adesso gli volti le spalle, assolutamente, hai venduto libri grazie a Renzi, hai venduto, sta a vedere ora il problema per mandarlo in libreria, sta a vedere se come andrà lui a dicembre, novembre, dicembre, no? Io sono molto ottimista, lui governerà per i prossimi 15 anni l'Italia, però non tutti la pensano come me. Ho capito, ma tu hai guadagnato soldi grazie a Renzi? Qualcosa, 3-4 mila euro, 5 mila euro grazie a Renzi, assolutamente sì. Ma infatti in famiglia abbiamo stato cose, l'adoriamo. Tra poco sostituiremo la statua di Andreotti con quella di Renzi. Oh no, questa è abbastanza, questa è un voltafaccia per Andreotti, no, clamoroso. No, il busto di Andreotti non puoi. Li terremo tutte e due, vabbè, faremo una galleria, insomma. Una galleria, almeno una galleria, il busto di Andreotti, il busto di Renzi. A proposito, questa cosa, prima vedo che Aurora citavi Yoram Gutgeld, il consigliere economico di Renzi, che ha detto, gli ho spiegato io gli 80 euro, sono stato io a suggerirglielo via SMS, gliel'ho spiegato via SMS. E va bene. Ho capito, ma cos'è? No, no? Vabbè, è così, ragazzo. Vabbè, è la comunicazione contemporanea, nel senso. Anche te col tuo commercialista manderai gli SMS. No, non so, dico. Sì, beh, eccola, per mandare i soldi in Svizzera, quelle robe lì, dico. No, che in Svizzera, no. No, li mandi tu in Svizzera, voi padani che siete vicini. Sì. Li mandate in Svizzera. Quando va. Sì. No, è così. Lui lo voleva, tra l'altro, un ministro dell'economia, ma sai che Napolitano non l'ha voluto. Gli è vero, e adesso il povero Padoan Va bene, intanto ci scrive Roberto da Pordenone, 7 ottobre compleanno di mia suocera, come distruggere una ricorrenza storica, andiamo a sentire il traffico. Ribadisco, non è solo ti vorrei, mi sembra il titolo adatto per domani. 24 mattino. Ma perché ce l'avete tutti con la Juve? Perché la Juve è un po' come Renzi, sfonda le porte se non le possono aprire, le sfonda, ma con la capacità di poterle sfondare, non comprano le partite, ma che buffoni che siete proprio dei buffoni. A posto del TFR in busta paga, vorrei dire ai politici, basterebbe 2 mesi di sospensione INPS al dipendente, così vi date un po' di soldi in più in busta paga, e viva l'Italia! Forza Alessandro, un nome e un incitamento, vai forte, ciao ciao! Brutto gredino che ti occupi solamente del Milan e della Juve e di altro, i sindacati non possono licenziare senza articolo 18, voi non sapete niente, perché io da povera pensionata che sento la radio e la televisione, la sapevo questa cosa. Non c'è niente da fare, ragazzi, Alessandro Milan, c'ha le idee! Amo Umberto Bossi, altro io non ho. Certo un clandestino, mai lo spiterò, voto Lega sai, e non sbaglio mai. Viva il Bossi dentro di me. Direttamente dal sinodo, cara Aurora Lussana, c'è questo cantante. Ma sei blasfemo ed eretico te. Ma no, perché il ma no, la melodia era. Sì, era... Sì. E ho studiato dalle suore. Vincino ha studiato dalle suore la Lussana. E adesso parli di orge paniche. E... Appunto, blasfema tu, come appunto, cosa vuol dire? Infatti, volevano farmi crescere col senso del peccato e invece hanno, hanno liberato il sesso panico che era in te. Certo, orgiastico, libero, certo, primordiale, contro la sessualità meccanizzata delle macchine sterili di... Mamma mia. No, vabbè, io sono tutto orecchie, non capisci? Noi siamo arrivati noi. Vincino sei però un secondo po'. Me la Brescia su quelle robe qui sarebbe anche un po' più preparata di voi. Ma cosa ne sai tu? Perché essendo una ballerina mando l'arte, si vede che è una donna che c'ha dentro una grande autentica passione per l'arte, voi siete, mi sembrate un po' così, siamo un po' bigotti, no. Vincino non ci apriamo al sesso moderno, no. Orgiastico, panico, anche perché la danza è proprio liberatorio, il tripudio, battere tre volte il piede sulla terra, no, questo momento liberatorio. Vincino, puoi dire la tua, non so, magari non hai commenti da fare, Vincino. No, c'è questa apertura di Francesco alla comunione per i divorziati. Sì, no, sì, non era proprio questo l'argomento. Si inizia dall'apertura ai divorziati. L'apertura ai divorziati e via. E si arriva al sesso panico, alle orge. Sesso panico, poi non capisco come, ma i leghisti non sono per le sentinelle quelle bloccate. Ma appunto, voi non siete... Ecco, ma poveri, le hanno anche prese, hanno beccato tante di quelle saccagnate, sti qua poveri. Allora, infatti io su questo, ecco, panico la sentinella come la fa? Come fa? No, ho capito, però io adesso, Vincino, visto che hai introdotto questo argomento, effettivamente a me ha colpito, ma se quelli vogliono fare le sentinelle in piedi, non lo so bene che cosa si battono per scatola a noi. Ma no, ma che rompere? Ma potranno andare in piazza a casa tranquilli, che gliene frega se quelli là si sposano o no. Ma potranno fare quello, potranno manifestare per le loro idee. Ma io posso sposarmi con chi voglio. Ma ho capito, ma certo, ma loro potranno fare una manifestazione. Ma ha ragione Voltaire, là possono fare pensare quello che E invece voglio, si sono presi le bottigliate a botte sino a quando non pensano quello che dico io, diceva Voltaire. No? Ecco, più o meno sì, una rivisitazione. diceva più o meno così Voltaire. Detto dagli antagonisti era così. No? Dagli antagonisti così. Quelli erano lì a manifestare. Poi io non lo so neanche, non mi sembrano un po' dei fanatici, insomma, però erano lì a manifestare tranquillamente. Fanno il sesso panico questi qua. No, prima, quelli però, sesso panico. Panico e poi vanno là. Vabbè. Stanno fermi un poco e poi di nuovo ritornano a fare sesso panico. Comunque, Aurora Lussana, cosa succede il 18? Che vorrei parlare, il 18 ottobre, cos'è? Siete tutti invitati in Piazza Duomo. Sì. Milano alle 18, in realtà il corteo parte da Porta Venezia e lì vorremmo dare voce a tutti i cosiddetti oblie, come li chiama la Le Pen, i dimenticati, cioè, la gente dimenticata nel nostro paese. Sono quelli che vivono in grande difficoltà economica, ma vedono che l'ultimo che sbarca sulle nostre coste, grazie alla Marina Militare, che invece che difendere i confini, no, fa praticamente d'agenzia viaggi a tutti gli scafisti, a tutti i clandestini, ecco, a quello lì, l'ultimo che sbarca, il nostro Stato garantisce vitto, alloggio e 30 euro al giorno. Dovremmo farli morire un po' in mare, non so. No, dovremmo semplicemente difendere i confini. Ma mica è un'invasione, mica è una guerra. Cioè... È un'invasione, quando tu entri illegalmente o regolarmente in un altro paese, senza averne titolo... Ovviamente tu prova a entrare in Vaticano senza documenti, Milan, vediamo cosa ti succede. Lo facciamo io e te? Dai, facciamolo, dai, a braccetta. Vabbè, dai, siamo al momento della ricetta, ci devi dare la ricetta. No, mi arrivano i tecnici per la revisione della caldaia, non riesco a cucinare. Ma puoi fare venire qua a aggiustare la luce a me i tecnici? Cioè, sono proprio... Ma che è successo a Mondello con... Un

è finito agli arresti domiciliari in un appartamento dell'Ater di Padova, insomma l'azienda territoriale per l'edilizia, una casa popolare per intenderci, l'ente che fa capo alla regione Veneto. La casa in questione però era stata concessa in locazione a Don Albino Bizzotto dell'associazione Beati i Costruttori di Pace e secondo Libero il sacerdote ha deciso di trasformare lo stabile in una sorta di condominio abitato da alcune famiglie rom. Il sindaco Bitonci dice lo cacceremo in tutti i modi, lo manderemo via, insomma gli arresti domiciliari, titola Libero, a spese nostre in una casa popolare. Vabbè. Dopo aver chiacchierato con Elsa Fornero alle 8:15, dopo il giornale radio parleremo anche di calcio e la Gazzetta continua, Moviola, antivirus, c'è anche lo juventinissimo Massimo Giletti che sarà nostro ospite tra gli altri, che fa un intervento sul Messaggero e quindi sul giornale che ieri titolava La Roma è partita con un uomo in meno, cioè l'arbitro, a dire imparate a saper perdere e a misurarvi con i vostri limiti, ma insomma è diventato un affare di Stato. Roma-Juventus, o meglio Juventus-Roma, ne parleremo alle 8:30, ma prima il premio La Carta Costa per l'articolo più inutile scovato sui giornali, era ovvio, doveva finire sui giornali, oltre che da Barbara D'Urso, questa vicenda della relazione tra la senatrice Pezzopane, 54 anni, e il baby fidanzato spogliarellista 30 anni, Giovanna Cavalli, ne parla sul Corriere per dirci che lui mi chiama Pesciolina, Pesciolina Pezzopane, e io lo chiamo Gnocchetto, anche se in effetti è uno gnoccolone. Parole della senatrice Pezzopane, Pesciolina, Pesciolina nostra. Ma chi se ne frega? 24 mattino. Siamo qui ben ritrovati da Alessandro Milan quando sono le 8:19. Allora il governo molto probabilmente porrà la fiducia sulla riforma del lavoro, oggi al Senato termina la discussione e proprio tra l'altro mentre stiamo parlando invece Renzi sta incontrando i sindacati, un'ora solamente, dalle 8 alle 9. Vogliamo parlare di questa riforma del lavoro, anche del metodo utilizzato. Lo facciamo con una persona che è stata ministro al lavoro nel governo Monti, è la professoressa Elsa Fornero. Buongiorno professoressa, ben ritrovata. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Cominciamo dal metodo, si fa con la fiducia una riforma del lavoro? Io so che noi non potemmo farla con la fiducia, ci fu una esplicita richiesta del Presidente della Repubblica e mi sembrava logico aderire a questa richiesta, anche perché noi avevamo fatto per decreto una riforma della previdenza piuttosto severa e quindi sembrava normale. E poi guardi, voglio dire che c'era un clima allora in cui almeno molte persone pensavano veramente che i tecnici, perché noi eravamo un governo tecnico, sì, potessero diciamo così reindirizzare il paese. La politica avrebbe magari colto l'occasione per rinnovare se stessa e il paese avrebbe potuto appunto imboccare una nuova strada di crescita. Per qualche ragione questo scenario non è riuscito e quindi diciamo che noi abbiamo cercato comunque di fare la riforma del lavoro con il dialogo sociale. Tre mesi. Adesso invece ha visto un'ora, cioè il clima è cambiato secondo lei? Sicuramente il clima è cambiato, sono cambiate molte cose, l'economia non è migliorata, anzi l'economia è peggiorata. Direi che questo forse dà a tutti la consapevolezza che non è soltanto la crisi che si è innescata a partire dal 2007-2008 con la crisi finanziaria, ma c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di strutturale, c'è qualcosa che forse Renzi dice cambiamento culturale, cambiamento negli atteggiamenti, che richiede una presa di coscienza da parte di tutti, sindacati compresi, ma vorrei dire anche le imprese. Però lei dice noi non potemmo usare la fiducia, ma secondo lei di principio è sbagliato imporsi con una fiducia oppure è giusto perché basta al momento delle chiacchiere, quando c'è una volontà politica esplicita si può anche ricorrere a questo mezzo? Guardi, io penso che il dialogo non siano chiacchiere, e se il dialogo è un dialogo vero da entrambe le parti, senza pregiudizi, senza preconcetti, e il lavoro meriterebbe un dialogo di questo tipo, allora non sono chiacchiere. Però è chiaro che se invece sotto c'è qualche cos'altro, cioè una volontà di affermare politicamente un'idea, di mostrare una forza politica, anche allora è diverso. Però io non voglio entrare in queste che sono disquisizioni eminentemente politiche. No, voglio dire che noi scegliemmo un percorso che ci sembrava normale. Io se posso dire, ricordo anche che qualcuno mi disse: ma tu perché non ti sei dimessa? Io dimettermi ministro tecnico con cose da fare, quando mi viene chiesto di procedere col dialogo, mi sembrava un'assurdità. Le chiedo questo: a scorso aprile, dopo un anno di monitoraggio della sua riforma, non c'era stato, mi pare, alcun significativo aumento dell'assunzione a tempo indeterminato. Infatti il ministro Poletti di recente aveva detto: la riforma Fornero è fallita soprattutto sull'apprendistato. Da qui è nata l'idea di una nuova riforma del lavoro. Insomma, governo che vai, riforma che si trova? Devo dire che questo in effetti mi dispiace un po'. Io sull'apprendistato ci ho contato molto, credo che sia una buona cosa, credo che si tratti di quel cambiamento che serve per rendere il mondo della scuola e il mondo del lavoro meno distanti. Mi dispiace che il ministro Poletti abbia liquidato così l'apprendistato. Certamente quello che bisogna imparare, ministri e non ministri, è che sulle riforme si deve lavorare. L'idea che basti una riforma, cioè una legge, per cambiare lo stato delle cose, quando invece la legge è fatta per cambiare i comportamenti di tutti, istituzioni comprese, perché guardi, lei può fare il migliore apprendistato del mondo sulla carta come norme, però poi se la scuola e le imprese non si parlano, allora non funziona. Rimane carta, è chiaro. Cioè, oppure lei... posso dire, anche quando le imprese vogliono apprendistato, ma solo perché costa meno e in realtà poi non vogliono magari investire sul lavoratore, cioè dargli strumenti professionali. Rimane una riforma monca. Molto miope, vorrei dire. Ma lei con questa riforma l'avrà studiata, l'avrà vista? Secondo lei si creano più posti di lavoro? Perché poi questo è il tema, cioè si creano più posti di lavoro e più tutele anche per i non tutelati con la riforma in discussione? Guardi, diciamo che quello che è cambiato per l'appunto è l'idea che oggi l'economia richiede un qualche shock, altrimenti è difficile che si riprenda. E vedo anche molti colleghi economisti auspicare uno shock che viene soprattutto da misure di tipo macroeconomico e di tipo fiscale. Ora, se uno va nella direzione, come questo governo ha fatto più che legittimamente, di rendere molto più facile il lavoro a tempo determinato, questo può nel breve periodo creare molti più posti, è quello che in fondo è avvenuto in Germania. Bisogna fare però attenzione a una cosa, e questa è una cosa che interessa non solo alle imprese, interessa al paese, e cioè bisogna fare attenzione alla produttività del lavoro. Ora, la produttività del lavoro non si fa con impieghi a brevissimo termine, non si fa assumendo oggi e licenziando domani, si fa anche costruendo delle buone relazioni di lavoro. Su questo, vede, di nuovo le riforme possono lasciare il tempo che trovano, sì, nel senso che ci vuole effettivamente un po' più di lungimiranza e bisogna investire sulla qualità del lavoro. Le chiedo però, l'articolo 18 cos'è? Un falso problema, un totem ideologico, un qualcosa da togliere perché è un unicum o quasi in Italia? No, io non credo affatto che sia un falso problema, credo che ci sia molta ideologia su questo, però credo anche che sia una salvaguardia, perché noi non possiamo sempre soltanto rappresentare il mondo del lavoro sbilanciato, come dire, a favore di lavoratori magari poco interessati. Però è una salvaguardia non per tutti e quindi non è un'ingiustizia per chi non ce l'ha. Beh, ma questo casomai, e qui mi sento di dar ragione a quelli che dicono questo, casomai la salvaguardia va estesa, però sa, è il lavoro dipendente che vede una situazione diversa tra lavoratore e datore di lavoro. Se io lavoro in proprio, beh, è chiaro che non ho un articolo 18 perché posso soltanto licenziare me stessa. Qui, in quanto ci sia ancora questa fattispecie di lavoro dipendente, beh, il lavoratore va salvaguardato contro i licenziamenti discriminatori. Guardi, io ho fatto una norma contro le dimissioni in bianco. Sono felice che nessuno più ne parli, vuol dire che adesso questo comportamento francamente inaccettabile, degno, non c'è più o comunque è molto minore. Le norme che salvaguardano, nel senso che rappresentano anche un monito, secondo me hanno un valore. È chiaro che se noi partiamo dal presupposto che i giudici siano tutti a priori a favore dei lavoratori, allora diciamo no, togliamo le mani dei giudici da questa vicenda. Però proprio l'altro giorno, mi pare sul sito vostro del Corriere, ho visto un resoconto per la prima volta, perché lei ha parlato di monitoraggio della riforma, ma il monitoraggio della riforma io lo devo ancora vedere, diciamoci la verità, non è un monitoraggio vero quello che è stato fatto. E per esempio io non ho visto a livello nazionale dei dati su licenziamenti, su conciliazioni, e questi li dovrebbe fornire direttamente il Ministero della Giustizia con il lavoro che ci mette la parte sua. Benissimo, però ho visto un resoconto che diceva che nella provincia di Milano sostanzialmente questa modifica ha funzionato, cioè ci sono molte più conciliazioni, non ci sono più praticamente reintegrazioni per il motivo economico, e invece ce n'è qualcuna per il motivo. Quindi quando lei sente dire sono 44 anni che c'è l'articolo 18 da Renzi, lei dice ma io l'ho riformato 2 anni fa e vediamo. A questo direi che è una pessima abitudine quella di considerare che bisogna sempre ripartire da zero. A me piacerebbe che si dicesse, e lo troverei un discorso assolutamente da paese normale, vediamo quello che è stato fatto, correggiamo le cose che non sono andate bene e, poi, al limite, e invece rafforziamo questa idea di continuità, esattamente l'idea di un indirizzo a cui, se posso dire, il paese, che il paese non ha avuto negli ultimi 20 anni. Le chiedo, professoressa Fornero, secondo lei dopo Renzi c'è la troica? Perché è la stessa cosa che dicevano dopo Monti e dopo di voi. Beh, come tutti possono vedere, oggi nessuno più parla di spread, che era invece la situazione. Io ricordo ogni minuto di quei primi 20 giorni al governo, perché la sensazione che noi potessimo non trovare finanziamenti sui mercati finanziari e quindi in qualche modo dover chiudere i finanziamenti per il pagamento delle pensioni, per esempio, oppure per il funzionamento degli ospedali, oppure per la sicurezza, beh, questo c'era, non lo so, non credo che fosse una leggenda metropolitana, era qualcosa che noi sentivamo. Adesso meno, perché la situazione anche generale macroeconomica è cambiata. È chiaro che noi dobbiamo fare le riforme, dobbiamo farle seriamente e senza pregiudizi e magari continuando da ciò che è stato impostato e fatto. È chiaro che un ministro tecnico non ha una legittimazione politica, però lei ricorderà anche tutto l'armamentario di insulti. E come no, che e come io no. Ho ma ricevuto. A questo proposito, lei ha studiato una vita e studia e continua a dedicare gran Grazie parte della sua Dio vita sì. a questo, ma verrà ricordata per gli esodati, lei lo sa. Insomma, purtroppo ci sono dei momenti storici in cui si confezionano degli abiti sulle persone e lei verrà ricordata soprattutto per questo. Lei di recente ha detto: so che molti. No, direi che questo, guardi, devo dire, sarebbe profondamente ingiusto. Però storicamente ma non è così. Per me. Beh, guardi, io devo dire che vado molto all'estero e all'estero io sono conosciuta come la persona che ha fatto la riforma delle pensioni e ha messo il sistema pensionistico italiano in grado di essere sostenibile, perché questo è la sostenibilità. Si può fare anche molto in termini di promesse e poi trovarsi con in mano quasi lei stessa di recente, allora, in un'intervista ha detto: so che molti mi vogliono e mi augurano ogni male, io li capisco alcuni di loro, nel senso che cosa vuol dire certo che li capisco, nel senso che, per esempio, questo è stato un qualcosa che io credo sia mancato come occasione, cioè anziché dire per carità quella riforma che è stata importante, e guardi lei, se fa questo piccolo test, in ogni documento di quelli che vengono dalle istituzioni internazionali, la prima riforma che era sempre chiesta era la riforma delle pensioni. Adesso nessuno più chiede la riforma delle pensioni. Ho sentito il governatore della Banca Centrale dire qualche volta si può sbagliare anche per eccesso, ma bisogna fare. E questo è quello che voi giornalisti stessi chiedete sempre a Renzi: fai, decidi, vai, magari anche sbagliando. Però se uno fa degli errori, poi è normale che ci si metta insieme per cercare di correggere. E ripeto che quegli errori non sono dipesi dalla mia volontà, sono dipesi dal fatto che l'Europa lo chiedeva, insomma c'era una situazione. No, non c'entra niente l'Europa, sono dipesi dal fatto che noi abbiamo un'amministrazione pubblica che non ha mai il controllo dei dati. È per questo che io ho molto insistito anche sul monitoraggio. È chiaro che se i numeri che mi sono stati dati fossero stati diversi fin dall'inizio, ed è per questo che io dico allora ci si mette insieme e si prova a risolvere il problema. Però è anche vero questo: noi lì avevamo anche lì un profondo cambiamento culturale, che era quello di considerare chiunque abbia superato i 50 anni come non più in grado di lavorare. Quindi l'idea era: troviamogli un canale che chiamiamo mobilità, chiamiamo deroga, chiamiamo qualunque cosa, ci sgraviamo la coscienza in questo modo e lo accompagniamo a un pensionamento anticipato. E invece il lavoro è il problema. No, non è chiaro, perché altrimenti non si continuerebbe sempre con questa impostazione. Mi dica in conclusione se lei lo rifarebbe, il ministro, se è un'esperienza, diciamo, che non si farebbe più tentare. Ho già detto molte volte che se fosse una circostanza di governo politico, assolutamente no. Se io mi ritrovassi nelle circostanze in cui mi sono trovata, e per quanto la gente possa non crederci, io l'ho fatto con uno spiccato senso del dovere, se fossi esattamente in quelle circostanze, così come non mi sembrava di dover dire no in quell'occasione, direi sì, però le circostanze non si ripetono. Quindi quella è stata un'occasione storica, drammatica, di serio rischio per il Paese, e io mi auguro che non ci sia mai più. E quanto, appunto, in sintesi già dato. Me lo dà, da professoressa, un voto a questa riforma Renzi, proprio da 0 a 10 o in trentesimi, se vuole, universitariamente parlando? Ma se lei vuole che io parli universitariamente, come dice, dovrei chiedere maggiori informazioni, perché io vedo ancora molto poco, mi sembra se si tratta di specificare meglio le circostanze nelle quali il motivo disciplinare può dar luogo a una reintegrazione, va benissimo, mi sembra molto in sintonia. Se dobbiamo metterci a lavorare molto seriamente su quello che da noi manca, cioè le politiche attive del lavoro, che sono in molte regioni in uno stato penoso. Allora, di nuovo, se lei ha persone disoccupate, magari disoccupate da un po' di tempo, quello che deve fare è aiutare queste persone a ritrovare una occupabilità. Io speravo, cioè almeno speravo almeno in un 18 sulla fiducia, però insomma no. Più informazioni. 18 sulla fiducia glielo do. Vorrei sapere molto di più. Questo sì. La ringrazio ovviamente. Buona giornata, Elsa Fornero. Buongiorno, grazie per essere stata con noi. Dopo la pubblicità parliamo di Juve Roma. Ebbene sì, è diventato un caso nazionale o europeo. 24 mattino. Allora, può una partita di calcio finire in interrogazioni parlamentari, appelli all'Unione Europea, appello al ministro Padoan, appello alla Consob perché le società in questione sono quotate in borsa? Può, evidentemente può. Juventus-Roma finita 3-2 con gol contestati, rigori, tre rigori, un gol alla fine segnato da Bonucci in fuorigioco attivo, passivo, insomma è finita così. E saluto l'onorevole Fabio Rampelli, capogruppo alla Camera per Fratelli d'Italia, tifoso della Roma. Salve, buongiorno. Tifoso dello sport. Dello io sport. Vengo dal mondo del nuoto, quindi sicuri. Vabbè, però tiene l'antitesi rispetto allo sport professionista. Tiene alla Roma, però, insomma, non è Ma moderatamente, si non può sono dire. Un hooligan. Vabbè, no, questo no. Saluto anche l'ex onorevole Maurizio Paniz, avvocato, ben ritrovato, Paniz. Ma, buona giornata. Ma è ancora presidente dello Juventus Club Montecitorio? Onorario. Presidente onorario, certamente non è se... Allora, qui abbiamo il vincitore e lo sconfitto. Abbiamo anche Massimo Giletti, conduttore dell'Arena, domenica alle 14 su Rai 1. Buongiorno Massimo. Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Che oggi fa... c'è la provocazione delle provocazioni, no? Prendila anche questa qua. Cioè, scrivi sul Messaggero un pezzo dicendo: cari romanisti, smettetela di cercare alibi. Ma questa è proprio come la vivranno a Roma questo tuo pezzo? Non lo so, perché io adesso tra poco devo prendere un aereo, arrivo dalla capitale, lo capisco subito dall'aeroporto. Nel momento in cui sei stato immortalato dalle telecamere, abbracciato a Marotta il gol del 3-2, che ne pensi? È finita. Qua c'è l'onorevole Rampelli che ha fatto una interpellata, farà un'interrogazione parlamentare. Che gli vuoi dire? No, dico, auguro a Rampelli grandi successi per il futuro, nel senso che penso che la politica si debba occupare d'altro veramente. Adesso io sono un po', capisco anche la voglia di fare marketing e ci sta tutta nell'onorevole Rampelli e in altri, però il paese ha bisogno di altro dalla politica. Quello che succede in un campo di gioco rimane un campo di gioco, sarà la Roma poi a decidere cosa fare, non certo la politica italiana. Poi, per carità, è un'ottima operazione di marketing. Onorevole Rampelli, ma c'è bisogno davvero di scomodare interrogazioni, interpellanze? Senta, mi chiedo scusa, sì. Cioè, se vogliamo, diciamo così, scivolare sugli spot è una cosa divertente, no, goliardica. Mi fa piacere comunque che Girti non abbia mai perso il senso dell'umorismo. Io non ho fatto un'interrogazione parlamentare su Juventus Roma, oltretutto mi risulta che la ruota, diciamo così, degli errori o dei favori arbitrali, Calciopoli compresa, gira, e quindi non è una questione che riguarda una categoria, una squadra, una tifoseria. Io faccio questo ragionamento che attiene agli interessi degli italiani, non della Roma o della Juventus o della Lazio. Il ragionamento è che l'Italia, lo Stato italiano, investe qualche decina di milioni di euro, per utilizzare una cifra approssimata per difetto, sul calcio. Le forze dell'ordine, la Polizia di Stato, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il 118, l'assistenza sanitaria, il trasporto pubblico locale, la Polizia Municipale, la nettezza urbana, sono tutti costi che pesano non su un'entità astratta, ma sui cittadini. Quindi io penso che la Lega Calcio o si paga le spese da sola, oppure deve garantire, in questo circuito di interessi così importanti e esorbitanti che coinvolgono tutti i cittadini, deve garantire dei mezzi anche un po' più moderni. Quindi la proposta è quella di mettere la moviola in campo. Come succede nel rugby, come succede anche a tutela di chi comunque ha degli interessi in questo sport, gli investitori, chi ha delle azioni per la società quotata in borsa, chi fa le scommesse, le gare. Quindi lei ne fa la battaglia per la tecnologia in campo. No, io penso che se lo cioè perché Stato l'errore nello sport succede. Se lo Stato italiano interviene con dei finanziamenti sottraendoli a tutte le categorie, a cominciare dai pensionati sociali in quota parte, deve comunque avere indietro, diciamo così, la prevalenza dei meriti sportivi, punto. Sì. Né gli errori né i favori. No, ho capito, però onorevole Rampelli, se no si può disinteressare perché siamo, ma d'accordo, si investono miliardi nel calcio, ma l'errore, allora uno può dire due strade, o dire l'arbitro è prezzolato e allora non va bene, il gioco è corrotto, oppure ci sta l'errore in una manifestazione sportiva dove c'è un arbitro che decide, ci può essere anche l'errore. Che facciamo allora? Nel rugby non c'è l'errore, si può guardare la moviola, interrompere la partita, annullare una meta assegnata per errore, appunto, che può alterare un giudizio Inizio che dovrebbe appunto essere ispirato soltanto al merito sportivo e a nient'altro. Allora, perché nel regno la Moiola fa, no, ma lei ne fa una battaglia per la tecnologia, forse che guardi che anche forse perché qualcuno nel calcio vuole farsi gli affari suoi. Ah, ecco, è questo che lei sospetta, no? Forse perché c'è un circuito, forse perché le anomalie, la soggettività deve avere sempre una centralità, non si può mai procedere per criteri oggettivi, non ci saranno mai completamente oggettivi, ma visionata una Moiola penso che un arbitro possa essere la un battaglia più per la tecnologia. Ma guardi che Tavecchio vuol fare questa battaglia, lei onorevole Paniz è avvocato, intanto che ne pensa da avvocato difensore e da tifoso della Juve? Io penso che il risultato del campo poteva essere anche diverso, concludersi la partita con un pareggio, ma alla fine la Juve ha avuto quel pizzico di voglia di vincere in più che ha portato al risultato. Beh, questa è l'analisi però, sportiva. Detto questo però dobbiamo fare i complimenti alla Roma perché ha giocato molto bene, è un avversario estremamente forte. Guardi che se le fai complimenti si arrabbiano triplo, Paniz. Ma io guardi che li faccio volentieri perché la Roma ha dimostrato di essere una grande squadra e merita tutta la nostra considerazione. Detto questo, Rocchi ha arbitrato male, ma ha arbitrato male a danno di entrambe le squadre, non a favore dell'una o a favore dell'altra. Eccolo lì, eccolo. Sono molti lì gli episodi per i quali la Juve potrebbe recriminare, ma non recrimina perché la legge dello sport insegna che i vantaggi e gli svantaggi alla fine più o meno si preparano. Equilibrano. La Juve è la Juve. Allora, dopo il traffico, rientro da Massimo Giletti per capire come mai una partita di calcio sia arrivata a questi punti, o meglio, il dopo di una partita di calcio, il post partita. Allora, Massimo Giletti, qui l'onorevole Rampelli ci ne fa una questione di dire se ci sono tanti investimenti nel calcio, non si capisce perché non si debba avere quegli strumenti tecnologici che garantiscano una maggiore correttezza. Intanto l'onorevole Rampelli, dico che forse lui è più esperto di nuoto, da come mi sembra di aver capito, che di calcio, nel senso che chiunque guardi da sera un programma sportivo, la Moviola, vede che determinate situazioni dopo mezz'ora di discussione non sono chiare. Ci sono molte telecamere oggi, la tecnologia fa vedere ancora di più, ma non è la certezza. Quindi l'unica applicazione che si può fare con la tecnologia è il gol dentro o fuori la rete. Questa è l'unica anche cosa. Fuori gioco. Ma sì, però poi fuori gioco oggi, con l'interpretazione di oggi, anche fuori gioco di Vidal dell'altra sera è molto molto molto diverso, sono cambiate interpretazioni, una volta lo era certamente, oggi non lo è, tant'è che nessuno dei giocatori della Roma ha alzato il braccio, nessuno, non l'ha visto nessuno quel fuori gioco. È chiaro, però stiamo a parlare di cose, perché la Roma sia forte, per carità. No, certo, ma dirlo. Per carità, no, però, la Roma è fortissima, ma la Juve è più spietata. Ecco, eccola. Rudy García ha detto una cosa prima di dire altre esagerazioni, no? Tipo l'area di 17 metri a Torino. Sì, sì. Ha detto una cosa: abbiamo perso perché non abbiamo saputo concretizzare due occasioni enormi. Se Pjanic non segna non stiamo qui a parlare. No, è vero, se Pjanic segnava, diciamo, a metà del secondo tempo, poi il 3-2. Questo mi chiedevi il calcio malato, e questo è un calcio malato, la fotografia di un calcio malato, perché queste tensioni esasperate così, tre espulsi, rigori dati, eccetera, la fotografia di un calcio italiano, punto. Beh, la partita è piaciuta, è molto intensa, però è un calcio su ma è stata anche una bella partita, a parte sì, un po' di nervosismo, però la questione, onorevole Rampelli, è tutti si chiedono in Italia, ma è possibile che la politica non abbia altro a cui pensare se non il dopo una partita di calcio? Lei ne ha fatto una questione dell'importanza, degli investimenti, però insomma, che diamine, è pur sempre una partita di calcio. Beh, guardi, del calcio si occupano tutti e quindi io non vorrei ribaltare la domanda che lei mi ha appena sottoposto. Cioè, di tante cose che io ho fatto nel corso della mia militanza politica, è possibile che il giornalismo si accorge soltanto di un'interrogazione parlamentare, sbagliando peraltro, perché non è fatta su Juventus-Roma, ma è fatto sul sistema del calcio, sui suoi interessi, sui costi per il cittadino. Però arriva dopo Juventus-Roma. Cioè, ma questo non vuol dire nulla. No, certo, ma è perché è una casa... No, non è casuale, cioè, mancherebbe altro. C'è stato un errore macroscopico, comunque una gestione discutibile che tutti i tifosi di qualunque squadra per 48 ore hanno commentato, mettendo in evidenza questi errori. Quindi io non capisco perché occorra fondare un torneo di calcio, anzi più tornei di calcio perché c'è anche la Serie B e la Serie C, su errori che poi possono anche degenerare in un sistema come ci ha insegnato Calciopoli, quando si potrebbe attraverso le nuove tecnologie mettere in campo la moviola come accade nel rugby, se funziona nel rugby, dottor Giletti, penso che possa funzionare anche nel calcio, ovviamente. Si tratta di decidere se quello è lo scopo, dove posizionare le telecamere, in che posizione, e quindi penso che questo problema tecnicamente sia facilmente risolvibile. Poi insomma lei è un maestro da questo punto di vista, e quindi ce lo può insegnare. Mettiamo Giletti. Altro conto è invece guardare la moviola la sera e commentarla. Quella non è una moviola tecnicamente predisposta per accertare. No, lei vuole la moviola in campo, ma in alcuni sport c'è. Io vorrei che la Lega Calcio, se non accetta di rendere più equilibrato un risultato dell'intero campionato, si paghi le spese e non le faccia pagare i cittadini. Capisco quale sia la piada dello scandalo. Se lo Stato deve pagare, allora comunque i tornei, qualunque torneo, qualunque competizione deve comunque essere obiettiva ed equilibrata. Se lo Stato fa un passo indietro, la Lega Calcio facesse quello che vuole, non diciamolo troppo a Renzi, avvocato Panis, che vuole già far pagare le società di calcio il costo delle spese straordinarie delle forze dell'ordine. Però da avvocato regge questa linea? Io credo che la tecnologia possa portare sicuramente un contributo ad alcune realtà sportive, anche nel calcio. Il gol sì, gol no, può essere risolto attraverso la tecnologia. Ci sono poi una serie di interpretazioni che sono assolutamente fisiologiche e patrimonio esclusivo degli arbitri. Il fallo che è stato contestato a Maicon è un fallo sul quale la discutibilità sicuramente è ammessa, però oggettivamente se stiamo a parlare con qualsivoglia moviola davanti per ore, alla fine non risolviamo il problema. Sono tante altre situazioni che la moviola non avrebbe risolto. Forse la moviola avrebbe evitato di considerare fallo quello che è stato dato a Chiellini e che ha generato il rigore a favore della Roma, forse la moviola avrebbe evitato di dare il cartellino giallo allo stesso Chiellini, forse la moviola avrebbe fatto capire all'arbitro che espellere Morata era un'esagerazione e bastava al massimo un cartellino giallo. Tante situazioni. Lei da avvocato difensore mi sembra molto ferrato per difendere la Juve, ma voi vi rendete conto, io tifoso del Milan, a cosa debba assistere? Caro Massimo Giletti, dovreste ridarci lo scudetto di Muntari. Allora vabbè, non riapriamo quella vicenda, non la riapriamo. Vi ringrazio, Fabio Rampelli, capogruppo alla Camera per Fratelli d'Italia, Maurizio Panis e Massimo Giletti. Vi ricordo, domenica torno ovviamente con l'Arena su Rai 1 alle 14. Alla prossima, 6:30 domani siamo qui. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.